America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero, muro contro muro, o comunque insomma sì, si parla, il dialogo fra democratici e repubblicani continua, ma nessuna soluzione. Il weekend non ha portato buoni consigli, si cerca di passare una legge al Senato per poi forzare il voto alla Camera e avere un voto trasversale. Questa credo sia alla fine l'ipotesi più plausibile, ma si arriverà, si dice, fino all'ultimo minuto dell'ultima ora, cioè fino al 17 di ottobre, quando si dovrà rinnovare il tetto sul debito. 17 di ottobre, tra l'altro, giorno in cui il Presidente del Consiglio Enrico Letta sarà alla Casa Bianca. Dunque vorrei dedicare la trasmissione di oggi invece all'Italia, alle cose italiane, intanto perché oggi c'è la Columbus Parade, c'è la grande parata che celebra Cristoforo Colombo e celebra, devo dire, gli italo-americani. E dunque, visto che oggi è una giornata italiana, voglio raccontarvi di un altro evento molto interessante che riguarda l'Italia, un esperimento del tutto nuovo. San Patrignano, il centro per la riabilitazione dalla droga, ha deciso di mandare dei ragazzi ex tossicodipendenti a correre la maratona. Ecco, ho con me i microfoni di America 24 Antonio Boschini, un medico che segue questi ragazzi. Anche lui era un tossicodipendente, anche lui si è riabilitato a San Patrignano. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno. Eccoci Antonio, buongiorno. Allora, noi ci siamo sentiti anche qualche tempo fa e a questo punto, insomma, il tempo stringe perché poi ai primi di novembre ci sarà la maratona. Siete pronti? Siamo in progress, appunto, come diceva. Stiamo sempre di più allungando le distanze, ci stiamo avvicinando progressivamente a poter correre, ad avere nelle gambe i 42 chilometri previsti per una maratona. Ecco, mi sembra che con lei ci dovrebbe essere anche un ragazzo che verrà a correre a New York. Jacopo Zanata, ci dirò tosto. Ottimo, Jacopo. Insomma, mi sembra che sia un traguardo non da poco questo di venire a New York per la maratona. Ma lei è mai stato a New York prima? No, non sono mai stato a New York, quindi è un'emozione grandissima. Mamma mia, ritrovandomi in un passato come era prima. Ecco, ci parli del suo passato, Jacopo. Lei quanti anni ha intanto adesso? Io ho 24 anni, vengo da Belluno e comunque ho avuto problemi di tossicodipendenza da ragazzino. L'ho riportata fino ai 21 anni prima di venire qui. E come è cominciato questo problema della tossicodipendenza? Lei mi ha detto da ragazzino, quindi quanto, 14-15 anni? Sì, ho iniziato a 14 anni, infatti era proprio un momento delicato per la mia età, dove ci sono state delle mancanze di crescita, dove ho avuto difficoltà a relazionare con le persone che avevo accanto. Ci sono tanti disagi attorno alla tossicodipendenza. Nei momenti di difficoltà la strada più facile comunque risultava la droga, perché comunque non è difficile da trovare. E che droghe ha usato? Come ha cominciato? Ho iniziato con il solito fumare gli spinelli, per poi dopo passare da altre droghe, magari dalla discoteca con le pastiglie, poi con le pastiglie si è nervosi, allora magari si mette con l'eroina, che tranquillizza, e poi quando scopri l'eroina, più delle volte è fatta. A quanti anni poi lei è andato, mi diceva? A 21 anni si è avvicinato a San Patrignano? Sì, è stato grazie ai genitori che mi hanno cacciato di casa. Ho trovato per fortuna San Patrignano che mi ha dato una mano. E che cosa ha fatto? Come è iniziato il percorso di riabilitazione? All'inizio è faticoso perché ti tocca ripartire da come eravamo bambini, a dover avere una persona a fianco che ti segue in qualsiasi movimento, quindi devi andare in bagno accompagnato, bisogna parlare, non ci si può isolare, bisogna sempre stare in mezzo alle persone. Mi sembra che aggiungere l'idea di, oltre a fare questo percorso difficilissimo, che già di per sé diventa un traguardo, lei con questi altri suoi amici, compagni, mi pare che siate in 7-8 che venite a New York, vi ponete anche il traguardo di correre una maratona, un'impresa quasi impossibile. Ma lei immaginava, diciamo, ma non 4 anni fa quando era ancora tossicodipendente, ma un paio d'anni fa, già a San Patrignano, era un traguardo immaginabile? No, assolutamente no, infatti comunque credo che siano cose indimenticabili queste, perché come dice lei, affrontare una maratona di 41 chilometri è una cosa abbastanza irreale. Ecco Jacopo, lei è quasi alla fine di questo suo percorso. Che consiglio può dare ai giovani che magari ci ascoltano e sono tentati dalla droga? Comunque da appassionarsi a un lavoro, ad uno sport, a cui io ho trovato uno sport, avendo degli amici, avendo una squadra con cui parlare delle mie difficoltà. Quindi io dico che uno sport è perfetto per riuscire nella vita. ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuate a seguirci su America 24, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato fondamentalmente di Italia, New York e al centro, oggi con la parata, domani, fra un paio di settimane ormai, perché è ai primi di novembre, con la maratona. E dunque, Frank Sinatra, New York, New York. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New Bene Simone, ti ripasso la linea. Consentimi prima di chiudere di ricordare Sara Bianchi, la collega del Sole 24 Ore con la quale tutti abbiamo lavorato molto, io ho lavorato con lei quando debuttò con la televisione. Vorrei dedicare a lei la nostra trasmissione di oggi. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani.